salario, vorrei chiedere, ecco, chi non è iscritto alla biblioteca, se vuole essere costantemente aggiornato, può lasciare il suo indirizzo, ecco, compilare un modulo in maniera tale che riceve l'invito a casa, se per caso vi sfuggisse dal giornale. Tutto qui. Chiediamo solamente questo se è interessato a partecipare ad essere tenuto al corrente. Buona serata, vi ringrazio e alla prossima. Grazie, dottor Sanfani. Ma abbiamo il microfono. No, ma io parlerei in senso. Ah, ok, perfetto, sì. Col microfono in mano mi sembra di tornare indietro. Quando lavoravo alla Rai, sentite, parlo da qui per ora, poi però mi dovrò spostare in fondo per farvi vedere la successione delle immagini, quindi penso che la mia voce vi possa raggiungere ugualmente, nel caso non vi raggiungesse me lo dite ad alta voce e io allora ricorrerò al microfono. Dunque, Piazza Walter ha 200 anni, l'abbiamo scoperto per caso, in un certo senso per caso, perché come forse alcuni di voi sanno, io mi sto interessando del passato di Bolzano, sono da 15 anni in pensione, quindi faccio altre cose che non facevo prima, disegno vignette, scrivo articoli che appaiono settimanalmente la domenica sul Corriere dell'Alto Adige e racconto vecchie cose di Bolzano. Ho scoperto Bolzano, la vecchia Bolzano, attraverso la lettura di vecchi giornali cui sono stato costretto perché a suo tempo la provincia mi aveva incaricato di scrivere un libro sulla storia di Bolzano. Allora mi sono trovato alla biblioteca Tesman. Signora, c'è un posto qua. Se vuole venire qua in prima fila. Non si può arrivare in ritardo. Ma no. Non si sente in colpa. Non si sente in colpa. Lei è sempre benvenuta, tutti sono benvenuti, prego. E ho cominciato a sfogliare vecchi giornali che si trovano alla Tesman, giornali tirolesi naturalmente, per scrivere questa storia dello sport di provincia di Bolzano, e mi sono trovato a contatto con una realtà bellissima, che è quella dello scoprire la città nella quale si è nati, com'era e come non è più. Ed è una cosa veramente molto interessante. E quindi, fatto quel libro, ho pensato, ma perché non incominciare a interessarmi della vecchia Bolzano, cosa che mi offrirebbe la possibilità di scrivere articoli, di scrivere anche dei libri. Infatti nella primavera prossima incomincerò con un primo libro della serie Bolzano scomparsa, e mi sono avviato lungo questa strada, che mi ha portato a incontrare il dottor Gotthard Andergarten, che voleva essere qua stasera, ma c'è un raffreddore dell'anima, l'influenza, è una cosa che gira e si scusa che non è potuto venire. Ho cercato di avvicinarlo perché l'interessante di questi articoli sono soprattutto le immagini, le fotografie, logicamente, no? È inutile raccontare se non c'è il supporto di un'immagine, l'immagine dà una certa suggestione. Conversando con lui, sua moglie, che è una, si dice in tedesco, Heimatforscherin, cioè una persona che si interessa di cose patrie, ha detto, ma volevo delle fotografie sulla vecchia Piazza Walter. Dice, ma ha detto in primavera, guardate che quest'anno Piazza Walter compie 200 anni. Allora mi si è accesa la lampadina e dico, qui facciamo un libro fotografico. Abbiamo trovato uno sponsor, ci vogliono sempre, che è la Cassa di Risparmio, la fondazione della Cassa di Risparmio, viene a darsi da fare in queste cose, ha finanziato l'uscita di questo libro che è uscito e che adesso vi descriverò, facendovi vedere le immagini alcune delle immagini del libro, ce ne sono 170, chiaramente non ve ne proietto 170, e vi racconterò anche le varie cose che concernono la piazza e che sono interessanti. Perché attorno a questo salotto buono di Bolzano c'è tutto un retroterra, c'è la storia di Bolzano naturalmente che può essere qui in questa sede rievocata, perché ha 200 anni. Il curioso è questo, ha 200 anni perché 200 anni fa Piazza Walter, che era un vigneto, fu venduta dal re di Baviera Massimiliano al comune di Bolzano per 3.000 gulden. Perché il re di Baviera? Perché all'epoca qua era Baviera. c'erano state le guerre napoleoniche, tutte queste cose che voi conoscete, se non lo conoscete lo stesso, insomma, questa era Baviera, non era Tirolo. In precedenza ancora, cosa era avvenuto? Il figlio di Maria Teresa, imperatrice d'Austria, Giuseppe II, aveva laicizzato, rientrando lui in una certa corrente che era quella illuministica, il secolo dei lumi è stato definito il 1700, aveva ritenuto eccessiva la presenza ecclesiastica e aveva sequestrato, aveva laicizzato una gran parte delle proprietà della Chiesa. Per esempio la Chiesa dei Domenicani di Bolzano era stata in quell'occasione laicizzata, era stata trasformata in una caserma, la chiesa vera e propria era un magazzino. L'antico edificio, il chiostro con quello che oggi è il conservatorio, era diventato una caserma. Piazza Walter, che allora non si chiamava Piazza Walter, che era un vigneto, era di proprietà del principe arcivescovo di Trento. Con alcuni edifici che ci stavano tutto attorno. Gli era stata sequestrata questa proprietà alla chiesa, era stata laicizzata, è entrata nella proprietà del demanio, nel caso specifico prima del Tirolo logicamente, prima della Casa d'Austria, poi della Baviera, il casato di Wittelsbach. E quando Massimiliano si è trovato evidentemente a corto di soldi, ha detto: perché non liberarmi di questo vigneto che non mi rappresenta niente? L'ha offerto al comune di Bolzano a condizione che il comune di Bolzano di questo vigneto facesse una piazza. Non doveva fare una speculazione edilizia, doveva farne una piazza, abbattere il vigneto e consentire ai bolzanini di godere di questo ampio spazio. E contemporaneamente vendeva anche quello che oggi è la costruzione, l'edificio del Hotel Città, che era anche di proprietà del Vescovo, era quella la sede dell'amministrazione vescovile, dei beni del Vescovo, e così tutta questa serie di beni, piazza, l'edificio comunale di cosa, del... che sarebbe diventato lo Stadt Hotel, poi l'Hotel Città di Bolzano. Un altro edificio che si trovava qui sulla destra era il cosiddetto era la Sängerschule, dove cantavano i coristi del Duomo. Entrarono nella proprietà del comune, della casa d'Austria, poi della casa di Baviera, quindi il re di Baviera Massimiliano, come ho detto, lo vendette al comune di Bolzano, e il comune di Bolzano nel 1808 mantenne la parola e rase al suolo questo vigneto. Nacque Piazza Walter. Adesso mi sposto perché vi faccio vedere via via, mi spiace stare in piedi, ma forse... No, ma qua ci sono delle sedie che si possono spostare, si possono recuperare. Adesso forse la signorina riesce a sistemarmi. Dunque, io sono in una posizione un po' disagevole, ma ce la faccio ugualmente. Ecco, adesso voi vedete questa vecchia immagine. Il giallo che vedete al centro, questa è un'immagine del 1600, il giallo che vedete al centro è il famoso vigneto del quale vi ho detto in precedenza. Questo qua è il vigneto, visto un pochettino più da vicino, riconoscete la vecchia Bolzano, vedete, notate la presenza di questi ruscelli, di questi rii che attraversavano la città e che attraversano la città tuttora. Sono interrati, sono le rogge, esattamente, abbiamo una via della roggia e via dicendo. Questo è un disegno del 1008 che ricostruisce la vecchia Bolzano sul filo delle immagini che vi ho fatto vedere in precedenza, e questo è il Duomo di Bolzano. Questo è il Duomo di Bolzano, che è l'edificio più antico di Piazza Walter. Vedete che c'è una processione là in basso, non so se lo vedete tutti. Il fatto che vorrei farvi notare E qua, vedete queste costruzioni che si trovano qui in basso a destra, dove adesso c'è l'ufficio postale? Ecco, all'epoca questo era l'ospedale di Bolzano. Si trovava lì. Il Duomo è l'edificio più antico, come avevo detto in precedenza. Risale... Ma no, nel senso che si mette davanti. Ah, si dice così. E no, il fatto che. Vuoi farlo lei? Faccio anche io. Ma sì, se mi fa questa cortesia. Sì, sì. Faccio io? Ah sì, allora dico io, avanti. Cioè, avanti. Scusi, lei mi mette questo. Questa è un'immagine che mi ha prestato per un libro, l'avevo fatto Monner, che è un bravissimo, un eccellente collezionista. Tecnica. Cos'è questo? È un registratore. Ah, sì, ah, ho capito. L'edificio, quando è stato nel 1985 si è cominciato a scavare per fare il garage sotterraneo, ci sono trovati dei resti medievali, delle monete romane. Si è pensato che lì potesse essere la vecchia Pons Drusi, la vecchia Bolzano romana, ma non è così. In effetti si è riusciti a capire qualcosa dell'origine del Duomo di Bolzano grazie, c'è il caso di dire grazie, ai bombardamenti, perché la distruzione al momento della riattivazione, della ricostruzione del Duomo ha consentito, scavando, di trovare le tracce di una chiesa paleocristiana, la lapide di un certo Regonzius che era lì e sepolto, quindi questa è una chiesa che nasce sulle fondamenta di una chiesa paleocristiana, antichissima pertanto. Su questa base, su queste fondamenta, nel primo millennio sono iniziati i lavori per la costruzione di una chiesa che inizialmente doveva essere una chiesa romanica, visto lo stile dell'epoca, ma costruita da maestranze italiane. Con l'andare avanti del tempo la si è goticizzata e sono intervenute nel frattempo maestranze dal nord, germaniche. Il campanile, che doveva essere romanico, come sono romanici tuttora i campanili dei domenicani e dei francescani, è stato elevato ancora ulteriormente e goticizzato, come vedete. Vediamo la successiva immagine. Ecco, questa riprenderò poi il discorso, questo è naturalmente, forse bisogna abbassare un po' le luci, perché qui in basso sinistra non è che si veda molto bene. Va meglio così, sì sì, ecco. Ecco, qua siamo adesso nella seconda metà dell'Ottocento, questa è la canonica. Questa è quella Sengerschule di cui vi dicevo prima. Notate qua in cima un castello che dovrebbe essere Castel Weinegg, quello che adesso non c'è più, che è stato distrutto col passare del tempo. E passiamo alla successiva immagine, che è questa, che è anche molto interessante perché vi fa vedere anzitutto lo sterrato, vedete non era asfaltata, poi mi piace tantissimo questo ufficiale austro-ungarico con la giacchetta bianca. Vogliamo parlare un attimo di Palazzo Campofranco, un'altra vecchia costruzione, Palazzo Campofranco. Perché si chiama Campofranco? Perché ha questo nome italiano. Il curioso, l'interessante è questo, dovete sapere che Ranieri d'Austria, viceré del Lombardo-Veneto, nel 1848, dopo i fatti di Milano, Radetzky eccetera, se ne venne a Bolzano. Non credo che fu una promozione per lui, che era un Asburgo, venirsene a Bolzano per morire a Bolzano. Evidentemente non era piaciuto al governo centrale di Vienna l'andamento delle cose a Milano e dintorni, con lo scoppio poi della prima guerra d'indipendenza, eccetera, eccetera. E Ranieri, questo è il fatto curioso, aveva sposato la sorella di Re Carlo Alberto, che era Elisabetta di Savoia, e questa è una cosa che nessuno sa. cioè, che non è molto, molto, molto, molto conosciuta. La, questa Elisabetta restò vedova perché Ranieri morì a Bolzano in Palazzo Campofranco. Una sua lapide, la lapide relativa che lo ricorda, si trova in Duomo. Se andate in Duomo, nell'ambulacro del Duomo, girate dietro l'altare, c'è questa bellissima pietra in marmo rosa che ricorda Ranieri, che lì è sepolta, lì è sepolta anche sua moglie, la sua consorte Elisabetta, che restò vedova e restò a Bolzano, anche lei in questa piccolissima città, ben lontana da Vienna. C'è da pensare quindi che ci fossero delle diffidenze nei confronti di Ranieri, che non aveva avuto evidentemente grande successo come viceré del Lombardo-Veneto, e della stessa Elisabetta, sua consorte, che era pur sempre una Savoia, quindi non ben vista durante il periodo delle guerre risorgimentali. Elisabetta si diede alla beneficenza, all'assistenza, e fece costruire quello che oggi è conosciuto, e lo era anche allora, come l'Elisabettinum, che si trova questo istituto per ragazzi, inizialmente ragazzi in difficoltà, che si trova in via Castelroncolo, che alcuni ritengono dedicato a Santa Elisabetta, oppure all'imperatrice Elisabetta consorte di Francesco Giuseppe. Non è così, è una Savoia, è Elisabetta di Savoia Carignano, che fece costruire anche l'equivalente per i ragazzi, ed è il Rainerum. Il Rainerum nasce da allora, da questa Elisabetta di Savoia Carignano, dedicato naturalmente a suo marito, cui fu inizialmente dedicata anche la strada che attualmente si chiama Via della Mostra, e che invece in epoca asburgica era chiamata Herzherzog-Heinrich-Strasse. Da Ranieri ed Elisabetta nacque Raniera, una ragazza che sposò un principe siciliano di Campofranco. Ecco perché questo edificio è chiamato Palazzo Campofranco. Possiamo andare avanti? Non l'ho fatta forse un po' lunga, adesso dobbiamo cercare di accelerare. Grazie. Questa è un'immagine interessante per due motivi. Innanzitutto c'è la piazza, c'è il cimitero. Questo è il cimitero di Bolzano, che da lì fu trasferito in via Claudio Augusta dopo la prima guerra mondiale. Questo è il ponte sull'Isarco, che era la Loretto Brück con due T. Si chiamava così perché a questo capo c'era una chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto. Questo Loretto Brick di legno un bel giorno all'inizio del 1900 bruciò e fu un problema grosso per Bolzano, perché altri ponti non ce n'erano per passare dall'altra parte. Poi costruirono il ponte della ferrovia. Andiamo avanti. Questa è la prima fotografia che abbiamo di Piazza Walter. Siamo nella prima parte della seconda metà del 1800. Questo è l'edificio che si trova al posto, che si trovava al posto dell'attuale cassa di risparmio. Esatto. Era molto più bello questo edificio, secondo me, dell'attuale cassa di risparmio. Questo edificio, sono due edifici che furono abbattuti nel 1942, non fu da bomba da abbatterli come si ritiene, no, furono abbattuti nel 1942 perché la cassa di risparmio voleva, che aveva acquistato via via l'edificio, voleva ampliarsi, ingrandirsi, però il prefetto di allora, che era il prefetto Mastro Mattei, aveva un altro pensiero, voleva qui costruire invece il palazzo del governo, cioè il palazzo che ospita attualmente la giunta provinciale, Palazzo Widmann, ecco, si sarebbe stato svuotato e qua si sarebbero trasferite le competenze del prefetto. Allora c'era il prefetto. Andiamo alla successiva. Ecco qua. Questi sono i due edifici di cui volete in precedenza. Questo era di proprietà di un certo Kernter, che era un birraio e che ed è un albergo, l'Hotel de l'Europe, con ingresso sul retro. Questo edificio è l'attuale Stato Hotel, l'attuale Hotel Città, però è diverso, molto diverso. Perché? Perché l'Hotel Città ha tre piani, non due. E all'epoca questo edificio ospitava la cosiddetta Töchterschule oppure Mädchenschule, era una scuola femminile, una media superiore femminile con un programma scolastico che era quello dell'epoca riservato alle bambine, alle ragazze, alle donne, che era ridotto, riduttivo rispetto al corso di studi del sesso opposto, diciamo, dei maschi. E naturalmente il programma scolastico era per loro dedicato in buona parte alla cucina, all'economia domestica, tutte queste cose, e pochi studi veri e propri. Per ottenere la maturità, non c'era differenza tra classico e scientifica, una ragazza allora doveva andare a fare gli esami a Innsbruck oppure a Graz, perché nel Tirolo del Sud, e del Sud intendo dire anche il Trentino, non c'era assolutamente possibilità in questo senso. Andiamo avanti. Questa è l'inaugurazione del monumento a Walter von der Vogelweide, che avvenne nel 1889. Io avevo fatto degli appunti là che voglio raggiungere, scusate un attimo. Dunque, qual è la ragione di questo monumento? La ragione di questo monumento è l'affermazione della germanicità di Bolzano. Sembra strano, ma Bolzano, che si sentiva città tedesca, e lo era, e sentiva il rischio della sua Verwelschung, della sua italianizzazione, di questa affluenza di italiani dal sud. Gli italiani erano visti con sospetto, da notare il fatto che non erano italiani, erano trentini, erano tirolesi del sud che salivano sotto forma soprattutto di operai da impiegare nell'edilizia, erano considerati manovalanza, visti con sospetto, così come negli anni successivi si sono visti con sospetto i rovigotti oppure i meridionali. C'è sempre stato questo sospetto verso l'affluenza dal sud. E questo è il confine che ci, di volta in volta, ci ha inalberato, noi del nord, lo dico tra virgolette, si è sempre spostato più verso sud. Adesso si è spostato nel Nord Africa, nell'Africa nera. Da sempre c'è questo sospetto nei confronti di chi viene dal sud, no? È una cosa curiosa. All'epoca si volle erigere questo monumento per l'appunto per ricordare e sottolineare la tedeschità di Bolzano. Vi voglio anche dire una cosa, che Bolzano era una città commerciale, ben differenziata dai comuni di Doriciville e di Gries, che erano dei comuni agricoli. Bolzano era commerciale e ricca, don del Duomo, questa grande costruzione, sulla quale poi forse, anzi sicuramente torneremo. E i voti, c'era una limitata libertà elettorale, le donne naturalmente non votavano, si votava solo per censo, potevano votare i ricchi, diciamo, in parole povere, no? L'orientamento era laico. Bolzano non è mai stata una città clericale, mentre lo era Gries, comune agricolo, o lo era Doriciville, comune agricolo. Bolzano è sempre stata una città laica, antireligiosa, los von Rom, lo dicevano sul finire dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quindi l'orientamento era... Avete presente il discorso dei grandi tedeschi e dei piccoli tedeschi durante il periodo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento? Ci fu questa diatriba, ci furono queste correnti politiche che vedevano con interesse a Vienna oppure a Berlino. Ecco, i tirolesi di Bolzano città vedevano con maggiore affetto, con maggiore Berlino piuttosto che Vienna, detto in parole povere, erano più germanici che austriaci, questo è fatto curioso, e quindi tenevano molto alla loro germanicità. E in quest'ottica è da considerare anche il fatto che si sia voluto costruire questo monumento dedicato a Walter von der Vogelweide, che secondo taluni all'epoca era di origine sudtirolese, cosa che non è, era un Minnesänger, cioè un trovatore, era anche un Ritter, un cavaliere, siamo nel XII secolo, un rappresentante quindi insieme della poesia e dell'autenticità germanica e della fedeltà alla corona degli Hohenstaufen, cioè di Federico Barbarossa, Federico II, eccetera. Mi sono dilungato forse un po' troppo, però è interessante notare che in quell'occasione venne a Bolzano, ci furono 8.000 persone che assistettero alla manifestazione, che incominciò la sera prima, bande musicali, treni carichi che arrivavano anche dal nord. Questo è Enrico Arciduca d'Asburgo, che venne con la sua famiglia a questa manifestazione, e il monumento è di Heinrich Natter, scultore venostano, e in marmo da Lasa della Val Venosta. Cosa c'è da dire ancora al riguardo? Simboli che si trovano sulla destra e sulla sinistra riproducono lo stemma di Walter, e dall'altra parte invece quello del comune di Bolzano, e ci furono gli immancabili discorsi che vi voglio ricordare, perché si dissero delle cose anche interessanti, ed è questo. Dunque, 15 settembre 89 l'inaugurazione. Il presidente del comitato per la costruzione del monumento, si chiamava Andreas Kirchhebner, sottolineò che la nostra città, prima di concludere i suoi discorsi, che la nostra città viva di spirito tedesco finché sopravvivrà una sola scheggia di questi marmi. Quindi c'era molta germanicità in questo monumento a Walter, cui si contrappose qualche anno dopo a Trento l'equivalente in senso contrario, cioè un comitato fece costruire il monumento a Dante Alighieri manifestare la presenza degli italiani. Dante indica il nord, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, ci siamo voluti sempre bene in questa terra, ecco. Allora andiamo ancora avanti di uno scatto. Oh, questo qua è un momento molto interessante. Sono tutte cartoline queste che vi proiettiamo in gran parte. Vedete che bello quella grossa a spots, no? Questo è un momento molto importante per Bolzano. È il momento della luce elettrica. Arriva la luce elettrica. La prima luce che illuminò Bolzano fu nel... Dunque... Adesso cerco di ritrovare la data esatta. Ecco, la luce elettrica fu del 1898. In precedenza però la piazza e la città era illuminata da lumi ad olio, poi da lumi ad olio americano, petrolio. Lo chiamavano così, olio americano. No, è il petrolio. Poi intervenne la luce elettrica. 1898, come ho detto prima, ma l'Hotel Grifone, che è, lo vedremo poi, il più vecchio hotel di Bolzano ed è la seconda costruzione di Bolzano dopo il Duomo in ordine di vecchiaia, di anzianità, di antichità, disponeva di luce elettrica già 5 anni prima, perché il proprietario Staffler, albergatore lungimirante, che poi avrebbe fatto tra l'altro costruire la funivia del Colle, si era costruito un impianto suo. Forse qualcuno si ricorda, ma ce lo si vede anche in qualche vecchia foto, all'inizio di via Laurino, dalla parte di Piazza Walter, c'era un impianto che funzionava a carbone. Il carbone produceva vapore, e il vapore faceva girare le turbine. Le turbine illuminavano l'Hotel Grifone e più tardi anche l'Hotel Bristol e l'Hotel Laurin. E il fatto curioso è che durante la guerra, mentre saltava la luce perché l'azienda elettrica finiva nei guai per via dei bombardamenti, il Grifone ha sempre avuto luce. finché ha avuto carbone, ha avuto luce. E solo dopo la seconda guerra mondiale la centrale elettrica del Grifone è stata disattivata e si è collegato Staffler alla rete dell'azienda elettrica di Merano e Bolzano, che è stata costituita appunto sul finire dell'Ottocento, sfruttando inizialmente l'acqua della caduta di Tell in fondo alla Val d'Aosta. Questo è un momento di gioia naturalmente per i bozzellini, vedete che la fotografia è chiaramente ritoccata, no? Per sottolineare il grande avvenimento. La luce la si accendeva all'imbrunire quando iniziava a fare buio e le si spegnevano alle 22. Alle 10 di sera la città ripiombava nel buio. Andiamo oltre. Questo è l'imperatore Francesco Giuseppe, lo vedete qua? L'imperatore Francesco Giuseppe nel 1905 venne a Bolzano 4 volte, la quarta volta appunto nel 1905, e in occasione delle grandi manovre in Val di Non, manovre militari. La volta successiva le grandi manovre furono effettuate nel 1935, presente Vittorio Emanuele III e il Duce. Vedete la storia come strana? No? Sempre in Val di Non, si vede che si prestava bene la Val di Non. No? Tra l'altro la piazza, che all'inizio non aveva nome, si chiamò Maximilianplatz dopo la vendita e l'acquisto da parte del comune di Bolzano. Quindi Johannplatz, che era Johann era il figlio più giovane dell'imperatore, poi Walterplatz, poi Piazza Vittorio Emanuele III, poi che cosa? Poi Piazza Madonna. Ecco, se lo ricorda signora. È perché dopo la guerra, niente più Vittorio Emanuele III, allora la piazza fu dedicata alla Madonna, perché la Madonna dell'Assunta è la protettrice del Duomo di Bolzano. Durò pochissimo tempo e tornò Walter. Andiamo avanti. Questa non è la chiesa di Bolzano, non ha nulla a che fare, però, a parte il fatto che sono molto legato a questa immagine, perché questo è il paese della cittadina di Oschatz, che è la cittadina di mia madre e di mio nonno in Sassonia, ve la propongo per questo motivo, perché c'è il doppio campanile. Vedete che assomiglia molto al campanile gotico di Bolzano, questo doppio campanile. Ebbene, il Duomo di Bolzano avrebbe dovuto essere così, perché nel progetto originale di Engelberg erano previsti due campanili. I bolzanini ne fecero uno, andiamo prego avanti, e per il secondo non ebbero più soldi. Questo è il secondo campanile. Se voi vi andate a vedere in piazza Walter, da quelle parti, il Duomo per bene, vedrete che qua c'è il secondo campanile che si è fermato. Bolzano avrebbe qui un altro campanile, sarebbe a mio giudizio una cosa molto bella e originale. Vero? Sono mancati i soldi, tanto per cambiare. I ricchi bolzanini non ce l'hanno fatta. Questa è una foto del 1880, molto interessante. Vedete, qua c'è un parco dove poi hanno fatto l'edificio che adesso è della Banca Nazionale del Lavoro. E a proposito dell'uomo, ho detto prima che è stato progettato da Engelberg, è stato completato nella prima parte del 1500 da Hans Lutz, che era uno svevo. Del campanile del Duomo si è detto che era stato fatto male, che era tutto sbagliato, che sarebbe crollato. Sono piovute le bombe di qua e di là, la chiesa è andata giù e il campanile è rimasto. Ecco. Vi voglio dire un'altra cosa curiosa, che sul campanile dormivano i cosiddetti guardiafuoco, che erano due persone che passavano tutte le notti sul campanile. Con qualsiasi tempo, qualsiasi temperatura, avevano lo scopo di individuare eventuali incendi. Loro dall'altro a turno guardavano in giro e se vedevano delle fiamme da qualche parte davano l'allarme. Campana a martello, la gente si svegliava, dov'era l'incendio? Allora loro su una delle finestre esponevano una lampada. La lampada la esponevano su quella delle finestre che dava verso l'incendio. E se la luce era rossa, l'incendio era vicino. Se la luce era verde, l'incendio era lontano. qui ancora vedete il vecchio ospedale. Andiamo avanti. Bene, questa è la posta come era una volta. Un piano in meno e una cupola in più. Questo edificio è stato alzato, qui non c'è più naturalmente l'ospedale, che nel frattempo è stato trasferito nell'attuale via Sernesi. Sapete perché si chiama via Sernesi? Rapidamente, perché il macchiaiolo, pittore macchiaiolo toscano Raffaele Sernesi è morto in quel, nel vecchio ospedale, quello che forse alcuni di voi ricorderanno ancora. Come Garibaldino era stato ferito a Bezzecca nel 1866, era stato trasportato a Bolzano, qui a Bolzano è morto, e ho avuto modo di trovare con una certa emozione dove è sepolto. È sepolto Raffaele Sernesi al cimitero militare di San Giacomo, c'è un lapide che con il suo nome, Raffael Sernesi Kriegsgefangener, e poi mi sono fatto dire dal custode: ma dove sono adesso le ossa? Ah, dice, i morti del 1866 sono là, mi ha fatto vedere dove, e c'è una fossa comune dove ci sono le ossa dei morti di allora, e c'è tra queste anche evidentemente le ossa di Raffaele Sernesi. Ecco, qui da questa fotografia vedete, in questa fotografia vedete una presenza, che è questa, è il tram, del quale parleremo dopo, che partiva davanti alla stazione, passava la piazza Walter e faceva poi via della Mostra, che allora si chiamava via, l'ho detto prima, Principe Ranieri, poi più tardi via Principi di Piemonte, poi via della Mostra, eccetera, eccetera. E questa ferrovia, questa tranvia proseguiva poi fino a Gries e risaliva tutta via Fago, che allora si chiamava Habsburgstrasse, fino in cima all'Hotel Austria. Notate, terra battuta. Anche qua, vedete? Queste le piazze di Bolzano, non è che fosse un limite di Bolzano, all'epoca l'asfalto di oggi non c'era semplicemente, e tutto qua è il discorso naturalmente, no? Ecco. Piazza Walter, la pavimentazione di Piazza Walter fu completata nella seconda parte degli anni 20, immaginate, andiamo avanti. Questa è la Töchterschule della quale vi ho detto in precedenza, ancora Töchterschule, quindi non ancora Stadthotel Bozen, e questo è il tram. Notate la scritta Nach Bozen, perché partiva da Gries, che era comune a parte, arrivava facendo la Reichstrasse, cioè la strada statale, che corrisponde all'odierna via Diez. Partendo da lì faceva la strada statale, arrivava nel comune di Bolzano e approdava infine davanti alla stazione nel comune di Dodicivilla, perché la stazione di Dodicivilla nasceva nel comune, la stazione di Bolzano nasceva nel comune di Dodicivilla, e la scritta sulla stazione non era Bozen, era Bozen Gries, cioè era una stazione quella che serviva due comuni. Andiamo avanti. Ecco qui vedete l'hotel, lo Stadthotel Bozen, naturalmente, possiamo andare avanti. E questo è l'hotel Grifone, qui siamo già in epoca italiana, diciamo, qua siamo già nel periodo del Regno d'Italia, vedete la scritta bilingue, Hotel Grifone, Gasthof zum Schwarzen Greif, questo vi fa capire che siamo nei primi anni 20, quando in Alto Adige vigeva il bilinguismo. Prima c'era il monolinguismo tedesco, poi col regno è stato imposto il bilinguismo, poi col fascismo è stato imposto nuovamente il monolinguismo, naturalmente in contrario all'italiano. Quindi l'hotel zum Schwarzen Greif diventò semplicemente Hotel Grifone. Vi ho detto in precedenza che questo è il più vecchio edificio di Piazza Walter dopo quello del Duomo. Difatti questo edificio e questa vecchia trattoria, Gasthaus zum Schwarzen Greif, è stata citata la prima volta nel 1500 rotti. andiamo avanti. Si potrebbe tornare indietro un attimo? Ecco, volevo dirvi che questa, a suo tempo i Bolzanini subirono bombardamenti non soltanto da parte degli anglo-americani, quelli furono decisamente pesanti, ma anche dagli italiani durante la prima guerra mondiale. Durante un bombardamento un aereo italiano distrusse questo Erker dell'hotel Grifone. Facevano praticamente niente, erano degli aerei che volichiavano così, buttavano giù la mano, spesso a mano addirittura, le più piccole, le bombe, cioè, sì, esatto. Andiamo avanti. Ecco, questo è interessante perché, per tanti motivi, innanzitutto vedete che la stessa fotografia è ritoccata, qui nella vecchia versione e qui con il nuovo edificio, attualmente a proprietà delle Generali. Il curioso è questo, che non hanno fatto due fotografie, hanno preso la stessa fotografia, qui siamo ancora in periodo asburgico, e l'hanno ritoccata. Questo nuovo edificio è del 1912, l'autore, il progettista, è lo stesso progettista, lo vedete anche dallo stile, dell'hotel città. L'altra differenza sta in questo porticato che qui c'è e lì non c'è, questo è l'ingresso un po' monumentale al cimitero di Bolzano, e poi interessante questo fumo che denota la presenza dell'officina del gas di Bolzano, che si trovava in quella che allora era chiamata Piazza del Mercato e che oggi è Largo Verdi, Piazza Verdi. Andiamo avanti. Questa è una bella cartolina, vera, vedete la data lì, è 1898. Questo è l'hotel Walter von der Vogelweide, di proprietà di questo albergatore Camposch, che era un grande, era una specie di Hilton dell'epoca, che aveva alberghi un po' qua, un po' là, a Vienna ne aveva e altrove nella monarchia, e che è diventato adesso di proprietà della Banca Nazionale del Lavoro. Una costruzione ispirata come stile sempre a quell'eclettico germanizzante che riscontrate a Bolzano, anche per esempio tipico in via Cassa di Risparmio, non è la parte alta di via Cassa di Risparmio, che all'epoca era la Elisabethstrasse, intitolato non alla Elisabetta Savoia Carignano ma alla consorte di Francesco Giuseppe. Questo è l'attuale Palazzo Widmann, dove ha sede la giunta provinciale, e sullo sfondo il Rosengart, eccetera. Ecco, la firma è simpatica, Onkel Poldi, lo zietto Poldi. Andiamo avanti. Queste sono due belle fotografie, a me piacciono tanto, cartoline di passeggio, e vedi che la piazza serve a qualche cosa. Vi sottolineo che ancora qui in queste immagini c'è ancora la scuola, non c'è ancora l'albergo, qui leggete Hotel dell'Europa, e di questa fotografia mi piace tantissimo questa bambina col cappello bianco in testa, che cammina, mi ricorda la mia nipotina Veronica, e poi questi tre militari, questi tre che suppongo siano dei Kaiserjäger, con delle piume sul cappello. È un bel momento di passeggiata, si suppone, domenicale. All'epoca non c'erano i mezzi che ci sono adesso, oggi la città si svuota di domeniche, tutti in giro in macchina. Allora invece la gente affluiva nel centro della città, c'era un movimento all'incontrario, no? E la piazza viveva più di oggi sicuramente. Andiamo avanti. Questo lo avete riconosciuto, e questo qua io me lo ricordo, molti tra di voi ce lo ricorderanno, non i giovanissimi, naturalmente solo i giovanili come me. Ecco, qui non c'è ancora l'hotel, lo Stadthotel, la tranvia fu costruita mi pare nel 1908, adesso dovrei vedere qua, 1907, e si fermava davanti a quello che oggi è il Palazzo delle Generali. I binari confluivano nei binari del tram che arrivava fino a Piazza della stazione e poi giravano a sinistra e proseguivano fino all'odierna partenza della funivia del Renault, dove all'epoca c'era invece la cremagliera con la ruota dentata che l'attendeva e spingeva queste carrozze su fino all'altopiano sopra Bolzano e da lì all'Assunta e si andava fino a Caldara. Guardate che belli questi capellini qua, vero? A me piace questa foto. Pensate, uno spicchio di mondo. Vale la pena, secondo voi, conoscere queste realtà di Bolzano? No, bene o male la nostra città, ecco. Io ci sono nato, lo ripeto, andiamo avanti. Anche lei, signora. Beh, questa l'abbiamo in parte già vista. Qui voglio sottolineare la presenza del tram con una seconda linea che vedete qua c'è il tram che percorre la strada verso Gris e questa è la linea di Laives, ecco, all'epoca non di Laives ma di Wurza, andava fino a Piazza Domenicani, l'attuale Piazza Domenicani, si infilava per via Cappuccini e partiva e andava verso, vedete che c'è l'altro tram, andava verso Wurza, è stato prolungato poi negli anni 20, mi pare, verso Laives. Spero. Di quella cupola lì, quella sì. Rotonda lì, ci può dire qualcosa? Non so niente, non lo sono chiesto perché, io, perché è bello. A che cosa è nata? Non glielo so dire. So che era già ufficio postale questo, erano già le poste. No, questa qui dell'angolo dove c'era una volta la... Questa? No, questa è un gazebo di proprietà Campofranco, c'è tuttora. Ma questa è un'occasione secondo me persa dai bolzanini, anzi del proprietario Campofranco. Perché sarebbe una bellissima terrazza con visione sulla piazza. Per godersi, esatto, qualche ombrellone, si vede che ha troppi soldi, non interessa far funzionare. Io mi ricordo che quassù, quando era gestore del Bar Juventus, mi pare si chiamasse così, sì, Bar Juventus, qui sotto, eravamo molto amici e le volte mi portava su, lasciava stare il suo caffè espresso e mi suonava le sue cosette. Poi abbiamo lavorato insieme anche alla RAI. Qui dentro, deserto assoluto, peccato proprio. Comunque fa parte del palazzo Campofranco. È proprietà Campofranco. Come il cortile. Campofranco come il cortile. Che è trovato. Esatto, che adesso ha finalmente riaperto, almeno per Natale. Ecco. Anzi, tra parentesi, volevamo aprire in palazzo Campofranco la mostra che abbiamo aperto sui 200 anni di Piazza Valtro. L'ho aperta, non so se l'avete vista, nella filiale della Cassa dei Risparmi in Piazza Walter, l'ho smontata oggi, questa mattina, e la riapriremo adesso nel municipio a beneficio dei tanti turisti che verranno, nel municipio nell'atrio. Andiamo avanti, prego. Questo momento per me toccante, questo qua, siamo nel 1914, questi sono i soldati austro-ungarici che partono per andare in guerra. Sono ragazzi che vanno a morire in gran parte, chissà quanti sono tornati. Sono cose tristi. Una cosa che voglio sottolinearvi è che ho letto dai giornali dell'epoca di questi soldati che si ammassavano. Uno dei tanti episodi a Gries, dove c'erano delle caserme, non quelle attuali, c'erano altre forme di casermaggio, e questi reparti da lì partivano, cantando canzoni verso Piazza Valtre, dove poi ci sarebbero trasferiti sui treni per andare al fronte, e cantavano in tedesco e in italiano. E perché italiano? Perché c'erano i trentini. Logico, no? E il giorno della dichiarazione di guerra, nel 1914, in Piazza Walter ci fu concerto e suonarono gli inni nazionali di Germania, Austria e Italia, perché l'Italia faceva parte della Triplice Alleanza, prima del... diciamo volta faccia, insomma, così è stato, però questo è un fatto curioso, eravamo amici alleati. Ecco, andiamo avanti. Sì, fanno storia. Passano nuovamente austro-ungarici. Questa fotografia ve la propongo perché è un momento significativo. In piazza, qui vedete qualche cosa del monumento a Walter, e qui quel porticato che avete notato, l'ho fatto notare in precedenza. Durante le messe al campo, che venivano officiate in momenti festosi, celebrativi, in piazza Walter, i militari, anziché scattare sull'attenti col cappello in testa, si inginocchiavano senza cappello, il che dà un'idea anche della vocazione religiosa della monarchia danubiana. Altre fotografie del genere le ho viste relative alle armate zariste. I soldati dello zar si inginocchiavano a capo scoperto. Andiamo avanti? Questa è... siamo nel 1917, questa è una fotografia abbastanza consueta. Questo è Carlo I imperatore con la consorte Zita. Venne a Bolzano nel 1917, sullo sfondo vedete la stazione ferroviaria, percorsero, guardate che bella questa bambina che offre i fiori all'imperatore, no? Non è una cosa costruita, è improvvisata, perché secondo il programma, ho letto i giornali dell'epoca, sarebbero dovuto salire su una macchina e tutte queste cose qua. Invece l'imperatore ha voluto andare a piedi. Eccolo qua, e questa è Zita. E questo davanti, forse mi sbaglio, non lo vedo molto bene, ma dovrebbe essere il sindaco Peratone. Però forse mi sbaglio. Lo vedremo forse più avanti, sindaco Peratone. Terra battuta ancora. Sono andati in Duomo, dove hanno assistito a una messa. La regina, sì, l'imperatrice poi è andata in un ospedale militare, l'ospedale militare di Via San Quirino. Poi insieme sono andati a visitare la mostra nella scuola, nella Elisabeth Schule, all'attuale Dante Alighieri, nella quale esponevano i Kriegsmaler. I Kriegsmaler è una realtà molto interessante e curiosa. I bravi pittori erano arruolati dall'esercito austro-ungarico per riprodurre tramite cartoline, quadri e robe del genere, momenti esaltanti e significativi del conflitto in corso. Non so, Defregger, quella gente alla furno, Kriegsmaler a suo tempo. Dopodiché tornarono in stazione, soggiornarono brevissimamente a Laurin, ma il giornale non dice dove, era un segreto di Stato, che poteva indovinare qualcosa lo spionaggio italiano. In stazione l'imperatore si incontrò con i rappresentanti politici dei partiti di Bolzano. E il curioso è questo, che a tutti li incontrò separatamente, cristiani, cristiano-sociali, socialdemocratici, che erano visti come l'estrema sinistra oggi, cioè erano degli elementi pericolosi. E a tutti disse che separatamente, lo sottolineo adesso io perché interpreto le cose, disse che vinceremo questa guerra con l'aiuto di Dio, cosa che non disse ai socialdemocratici, che erano laici. Andiamo avanti. Questa è una foto presa da un aereo austro-ungarico. Bella, no? Vedete, riconoscete la città, non ve la sto a indicare, vi faccio notare ancora una volta il campanile abortito, il secondo campanile abortito, forse voi in fondo non lo vedete, è interessante comunque. Andiamo avanti. Questa è una fotografia che non esiste sul libro, ma l'ho introdotta io. L'ho comperata dal Museo della Guerra di Rovereto. Questo è un aereo italiano in ricognizione su Bolzano. Quindi è un aereo che correva i suoi rischi. C'era la contraerea sul virgolo. Sparavano, insomma, qualche colpo se la sarà preso. Trovo che sia una fotografia importante per il suo contenuto. Andiamo avanti. E questa è una bomba lanciata da un aereo italiano che è terminata in piazza Walter. Bomba inesplosa. è una fotografia abbastanza conosciuta questa, mi piace comunque, è molto significativa di quel momento storico. Andiamo avanti. Qui siamo ai momenti finali del conflitto, l'esercito austro-ungarico in rotta si sta ritirando. Ho scritto di recente sul Corriere dell'Alto Adige cose relative a quei momenti molto dolorose, perché questa massa di militari che aveva abbandonato i suoi riparti e risaliva le vallate, una massa disordinata, era anche una massa di gente affamata e quindi salendo saccheggiavano, rapinavano, dovevano in qualche modo, ci sono stati dei morti a Bolzano, dei conflitti, è una cosa che scriverò in qualche libro per sviluppare quel momento anche. È da notare che di recente ho letto sull'Alto Adige la lettera di uno che scrive che l'esercito italiano non, doveva fermarsi a Salorno e non aveva diritto ad arrivare fino a Bolzano e oltre. Io non so come stessero le cose, non ho letto il Trattato di Londra, so però una cosa, che fu una delegazione del comune di Bolzano che salì alla Mendola per chiedere l'intervento degli italiani. Perché non a Trento, mi chiedete voi, perché la Tale di Trento era invasa da queste masse di soldati ed era pericolosa. Quindi salirono a Trento, non so se ci fu anche in quell'occasione il sindaco Peraton, e chiesero agli italiani di venire per creare ordine, per ristabilire l'ordine. Fu quella la funzione degli italiani, che oltretutto portarono anche delle cibarie, perché a Bolzano c'era la fame e più ancora c'era fame a Innsbruck. Gli italiani arrivavano fino a Innsbruck, arrivavano fino a Landeck, tra parentesi. Andiamo avanti. Questi sono gli italiani. Ah, voglio leggervi, se ce l'ho qua adesso, è interessante, una parte di un articolo che ho letto sul Tiroler del 7 novembre. Quindi 7 novembre e il 4 novembre armistizio. Allora, oggi giovedì 7 novembre, da notare che i giornali uscivano il pomeriggio. Oggi giovedì 7 novembre sono giunte in città truppe italiane nella misura di alcuni battaglioni di fanteria e squadroni di cavalleria. Qua è già qualche giorno dopo, suppongo. L'entrata degli italiani è avvenuta in assoluta tranquillità. Si sono visti per le strade molti curiosi, ma nessuno si è lasciato andare a manifestazioni di alcun genere. Il primo italiano che arrivò a Bolzano fu un capitano dell'aviazione, questo non è scritto qua, che atterrò con il suo aereo sul greto del Talbera. Sapete dove ci sono i campi righi, i campi di calcio? Una volta c'era un campo in terra battuta, vi ricordate? No? Quel campo di terra battuta era praticato come un campo di calcio anche prima della prima guerra mondiale, quindi e là atterrò il primo aereo che videro a Bolzano, l'aereo di un russo, tra parentesi, che fece alcuni giri attorno a Bolzano e poi se ne andò via e si fece per questa esibizione naturalmente retribuire. Ecco, arrivò quel capitano che prese contatto con gli ufficiali austro-ungarici e assicurò loro che l'indomani sarebbero arrivate le truppe per ristabilire l'ordine. Andiamo avanti. La pavimentazione c'è già il senso. No, qua. No, qua. Solo dove passa il tram. Qui no. Qui no, qui siamo ancora a terra battuta, qua ci sono ciotolacci ancora. Sì. No. Vedete che qua c'è lo scambio, qua si va a Leibes, cioè a Burza, e qua si va a Gries, no? Tra parentesi si dovrebbe poter intuire anche, ma non lo si vede bene, il binario, perché dovrebbe essere più o meno qua, questa è la pensilina ferrovia del Renault. Andiamo avanti. Questo, manifestazione italiana, il principe Umberto. Umberto di Savoia, Cassa di Risparmio, sempre quei vecchi edifici che voi conoscete, Piazza Walter naturalmente, che cominciò a chiamarsi Piazza Vittorio Emanuele III, divenne in quell'epoca un luogo nel quale le manifestazioni patriottiche, militari si susseguivano incessantemente. la festa dello statuto, la prima domenica di giugno, la leva fascista, poi ogni manifestazione partiva da lì e arrivavano più tardi quando fu costruito al Monumento alla Vittoria. Andiamo avanti. Qua c'è il re. Il re venne a Bolzano nel 1926 e nel 1928. Nel 26 inaugurò, anzi pose la prima pietra del Monumento alla Vittoria, nel 98, anzi nel 28, ci fu l'inaugurazione. Dove sia esattamente il re qui, io non riesco a capirlo. Io vedo che tutta la gente è orientata più o meno qua. È più piccolo. È più piccolo di tutti, Sciaboletta, esatto. È la famosa barzelletta, sì. No? Sai come l'avevano soprannominata la coppia, no? Curtatone e Montanara. Poverino. Lei veniva dal Montenegro. Mi ricordo una volta ero a Spalato come inviato per l'Atletica Leggera, se ben ricordo, e un tecnico della radio locale, cioè jugoslava, lo vidi molto, molto disponibile nei miei confronti, mi fece anche dei favori perché avevo delle difficoltà tecniche, e mi disse a un certo punto: guardi che io sono montenegrino, disse, io sono del Montenegro, noi vi abbiamo dato una regina. Ecco, vedi. Andiamo avanti. Bella, sono serio. E questo è il re alla cerimonia della posa della prima pietra. Vede la pietra qua sotto è agganciata a quella carrucola. Qua c'è il vescovo, che suppongo sia il principe vescovo di Trento, per logica dovrebbe essere lui. Sì. Non so se fosse già Endrici. Non era Endrici. Ah, era Endrici, sì. Andiamo più avanti. Questa mi piace come immagine perché vi fa vedere una strana coabitazione tra Schützen, perché hanno le piume, quindi è fascista. Questo è fascista. Questi sono fascisti. Questo non è neanche l'esercito italiano, sono camicie nere. Questa è la milizia per la volontaria per la sicurezza nazionale. Ecco questi bei baffoni. Questa è una cartolina che sul retro, se comprate il libro o se la sfogliate e leggete, è commentata da una sudtirolese che dice più o meno che questa immagine le spezza il cuore, che lei non si sentirà mai italiana. Giusto, no? Andiamo avanti. Beh, questo è l'autobus della Transattesina, da Bolzano partivano gli autobus che andavano a Madonna di Campiglio, andavano a Predazzo, e in Valgardiano no, c'era il trenino, ecco, sì. E qui siamo negli anni 20. 14-15? No, siamo negli anni 20. Le persone. Ah, le persone. Tentavo di contare. La strada della Valdega, tra parentesi, che io ricordo ancora in terra battuta, durante la guerra e subito dopo la seconda guerra mondiale, era una strada a pedaggio, non era una strada libera, si doveva pagare, quando era trattata dalla Val Serentino. Quando costruirono, prima della prima guerra mondiale, il ponte che c'è tuttora, quel ponte stretto, maledettamente stretto, che c'è sul parente Talvera, su in alto, verso Sant'Antonio, quel ponte era a pedaggio e gli abitanti di Gries protestarono moltissimo. Andiamo avanti. E il monumento a Walter viene ingabbiato per essere portato via. Mussolini dichiarò che non l'avrebbero mai portato via, perché ci fu un ministro bavarese, Stresemann, che si offrì di ospitare, di ospitare in Baviera il monumento, perché c'erano voci che dicevano che gli italiani fascisti volevano allontanarlo, e Mussolini dichiarò no, ciò non avverrà mai, anche se non dando importanza a Walter von der Vogel, gli disse che era affrontandolo con il Dante di Trento, disse che anche se Walter sta a Dante come il Pincio sta all'Himalaya, queste sono le parole alla camera, queste sono le parole ilarità e applausi naturalmente, e anche se così affermò, poi nel 1935 in effetti fu smontato e trasportato nel parco Rossegger. Esatto, la signora è brava, sono qui, è nata qui. Ma poi lo insegnavo a scuola, da 40 anni. Durante gli anni 20 il monumento a Dante, oggi ci sono quelli delle bombolette, no? E là c'erano quelli dei pennelli, che ogni tanto manifestavano la loro cosiddetta italianità dipingendolo di verde e di rosso. Il resto bianco era il monumento. Andiamo avanti. Ho letto, dice, il colore, che non fate queste cose, diceva il suo giornale, che il rosso non va mai via. E qui siamo in piena epoca fascista, e guardate, questo è un reparto di Balilla Moschettieri. Questo è il loro comandante, comunque un giovane fascista, o comunque una camicia nera, anzi più facilmente una camicia nera. Questo qua è un reparto del quale vi sottolineo due presenze. Questo piccolino, lo trovo così comico in prima fila, è il prete, il cappellano militare che con la sua tonaca marcia, marziale anche lui. Tra l'altro vedo che ha un sacco di medaglie, quindi poveretto qualcosa deve pure aver fatto, insomma, sul grappa o dintorni. Andiamo avanti. Qua questo è un picchetto sotto dei fascisti nuovamente, sopra un reparto regolare. Sono alpini, mi pare, sì. Anche qui ho voluto contrapporre i due momenti, cioè l'esercito regolare ufficiale, il regio esercito, e la milizia fascista che aveva in Germania il corrispondente nelle Waffen-SS, no? La milizia del partito. Andiamo avanti. Questo è un giorno importante, a parte il fatto che Mussolini ha sempre ragione, questo è il giorno della dichiarazione di guerra, 1940. La gente si raggruppava in quelle occasioni, veniva convocata in quelle occasioni in piazza, Vittorio Emanuele III naturalmente, e si ascoltavano i discorsi del Duce, altoparlanti, anche di Achille Starace in qualche occasione. Andavano nelle valli e rastrellavano i fascisti delle valli, che erano sul tirolesi in gran parte, suppongo, che comunque si erano dovuti adeguare a questa realtà, o magari anche alla sentivano, io non voglio, ma sì, non voglio sindacare. E quindi affollavano la piazza, in un'occasione che fu appunto quella della dichiarazione di guerra, il giornale La Provincia di Bolzano, allora c'era La Provincia di Bolzano, parlò di 40.000 persone, a me sembra che fosse un po' tanto 40.000, e anche qua vedi, ci sono dei buchi, insomma. Comunque avevano portavano la gente, ricorda la signora, anche dalla zona industriale, la portavano su. Tra l'altro, io vi dicevo prima della cosa, della piazza, sono un po' in ritardo, ma adesso concludo veloce. 1935, Mussolini, città, provincia di Bolzano, Mussolini passa per Bolzano. Reduce, sceso dalla Val di Non, dove aveva assistito alle manovre militari, qui ho accennato prima. Pagine e pagine del giornale dedicato a questo avvenimento. Direttore del giornale Mario Ferrandi. Testo. Ed ecco che lentamente preannunciato dall'altissimo calore umano si avanza da via Vittorio Emanuele, cioè via della stazione, una prima automobile seguita dalla macchina scoperta in cui in piedi è il Duce, sorridente, che saluta romanamente la folla. La manifestazione assurge alla grandezza di una apoteosi. Da tutti i lati della piazza la folla preme e si addensa verso il capo. Io non penso che esagerassero a scrivere, ma penso che era veramente così. Attorno alla macchina le fila delle camicie nere, rotte le formazioni, si stringono inneggiando in un appassionato e travolgente entusiasmo. Camicie nere, universitari fascisti, dopolavoristi, operai, tutti alzano il saluto al capo e vogliono vederlo da vicino, si addensano, si assiepano, fremono. L'automobile del capo del governo è bloccata dalla marea popolare nel mezzo della piazza. Il duce sorride compiaciuto, sorride col suo sorriso. Sorride compiaciuto, sorride col suo sorriso luminoso al popolo, al suo popolo che lo invoca, saluta ripetutamente col gesto romano. Ecco, andiamo avanti. Questi sono altri momenti. Qua, dopo la dichiarazione di guerra, la realtà è questa. Il rumore di questi. Me ne ricordo anch'io. Voglio proporvi questa immagine curiosa. Via dei Portici, via Streiter, via Argentieri. Sembra quasi un chicco di caffè un po' allungato. Questa è Bolzano, la prima Bolzano, la Bolzano dei Vescovi. Il Vescovo aveva la sua sede qua, in piazza nell'attuale Piazza della Mostra. C'è un passaggio che da Piazza della Mostra porta via dei Portici, quello basso basso, ecco, avete presente. E i portici si spostano da est a ovest perché la città è stata disegnata con intelligenza, è pianificata con intelligenza, cioè non nord e sud, il vento freddo della Val Sorrentina ci si sarebbe infilato, ma da est ad ovest. Quindi i portici, se avete ben presente, anche d'estate sono sempre, d'inverno sono sempre relativamente caldi. Poi qua tutto attorno, via Streiter e via Argentieri, c'era il fossato della città. A lato del fossato c'erano le mura della città. Dal fossato, la strada che girava attorno, si alimentavano i negozi che erano in via dei Porti, attraverso tutta una serie di passaggi successivi. Il primo approccio era la stalla, dove si fermavano i cavalli. Il secondo, il fienile. Il terzo, i magazzini. Il quarto, il negozio. Il negozio. Al piano superiore abitavano i proprietari e via via salendo il personale, sempre più la manovalanza assoluta era su in cima, perché una volta, come ben sapete, il piano nobile era il primo piano. Non è come adesso che i ricchi vanno nell'attico e i poveracci al primo piano. Non c'era, come giustamente rileva la signora, l'ascensore, per cui... importante essere fare pochi gradini. Questo è un aereo, questa è una fotografia di un aereo scattata da un aereo americano o inglese. Andiamo avanti. Questo è un bombardamento, sempre gli stessi aerei che in un passaggio successivo, sto leggendo adesso sul Bozner Tagblatt, ma neanche sul Bozner Tagblatt, perché erano molto reticenti, erano giornali nazista. E i bombardamenti di allora, ci fu un bombardamento, quello del 2 settembre, che prima non assoluto, che fu descritto dalla provincia di Bolzano. Poi la provincia di Bolzano, l'Alpenzeitung, il Dolomiten, dovettero chiudere, restò aperto solamente questo giornale nazista, che di tutto parlava, fuorché dei bombardamenti. Bombardavano Bolzano, c'erano morti, 80-90 morti, non c'erano. L'unica volta che parlò di un bombardamento fu quando una bomba prese in pieno la macchina sulla quale in via Castelroncolo si trovava Peter Hofer, che era il prefetto della provincia di Bolzano, con due SS. E allora, siccome hanno dovuto dire quantomeno della morte di Peter Hofer. E la giustificazione fu ein Terroranschlag, cioè un attentato terroristico. Poi in un articolo successivo scrissero anche bombe in Angriff, ma una sola citazione, perché sennò gli attentati e i bombardamenti non esistevano. Lei abitava in viale Trento. Lei abitava in viale Trento. Ecco, 2 settembre 40. 2 settembre il mio amico, il professor Romano Santi, insegnante al conservatorio e concertista di Fagotto, mi raccontò appunto il 2 settembre, lui abitava in viale Trento, ci fu questo mezzo cataclisma, lui era dentro e vide, era bambino, aveva 8-9 anni, la mia età all'epoca, vide entrare, trasportare all'interno dei feriti, spavento come vi potete immaginare, quando uscì da sua casa, viale Trento non c'era più, era piatto. Compreso il ricovero. Andiamo avanti, il ricovero dei vecchi. Ah, ecco che arriva l'8 settembre, e questa è una fotografia del 9 settembre, le truppe germaniche. mi è sempre sembrato strano, mi sembra strano che abbiano i pantaloni corti. Ci direbbe quasi che fossero delle truppe destinate all'Africa o reduci dall'Africa, che però non c'era, non era già più in nostro possesso, dico nostro per dire italo-tedesco. Andiamo avanti. Questo è il Duomo di Bolzano, è al termine della guerra. Penso che sia un'immagine che non abbia bisogno di molti commenti questi, no? Ecco, andiamo ancora avanti e mi pare... Ah, ecco, questa è Piazza Walter oggi, un po' diversa, più gioiosa. Questo è un raduno delle bande. In Piazza Walter comunque si è sempre marciato, eh? Andiamo ancora avanti. E questa è il mercatino di Natale, è la volgarizzazione, siamo all'epoca dello speck, delle zucche e dei mercatini. Questa è l'ultima immagine che vi propongo, andiamo avanti, di piazza Valle. Penso non abbiate domande. No, è il fatto che leggo molto. Siccome sono pensionato, mi diverto a leggere. Guardate che bello leggere i vecchi giornali. Poi ho tenuto in faccia presente il professor Ploner, che è uno dei responsabili della biblioteca Tesman. La biblioteca Tesman ha digitalizzato i suoi giornali, vecchi giornali genovesi. Io da casa entro in internet e sfoglio le pagine dei giornali del 1800. Anche, ce l'hanno anche qua. La provincia di Bolzano. Ah, sì.